9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, buon 13 marzo e un augurio a tutti coloro che si chiamano Rodrigo. C'è una bella sfida chiamare un figlio Rodrigo, perché uno immediatamente pensa ovviamente a quel ramo del lago di Como, ai bravi Don Rodrigo, la brutta fine che fa, la peste. Però insomma è un nome sfida, significa che ci si può redimere prima di fare del male, immagino, e anche a chi lo porta invece più spavaldamente un pensiero caro. Allora, oggi ci occupiamo noi di Rai. Ci occupiamo di Rai perché il tema è diventato incandescente sempre di più nelle ultime settimane, tanto che giovedì c'è un vertice di maggioranza, Monti sente, vede, voglio dire, Bersani, vede Alfano, vede Casini, e nelle ultime settimane avete capito cosa succede. Succede che i partiti iniziano a dire, PD e PDL per ragioni diverse, al governo Monti, visto che gli spread scendono, va bene caro, ci hai abbastanza rotto, non ti montare la testa e tanto te ne dovrai andare a casa tra qualche mese, perché poi rientriamo in ballo noi. Non so che cosa faccia pensare al PDL di poter rientrare in ballo molto agevolmente, quali sondaggi abbiano. Nel PD la cosa è diversa, perché nel PD c'è un dibattito interno, divisioni molto forti. Avete visto ieri Giustizia e Libertà e prima De Benedetti che dice la politica torni, avete visto D'Alema che dice vincerà Hollande in Francia e tornerà la sinistra in Italia. Insomma, la politica dice al governo, vabbè, hai fatto scendere lo spread di 250 punti, adesso accomodati caro. Mi sembra una stupidaggine per via delle riforme profonde di cui l'Italia avrebbe bisogno, ma di questo rifletteremo in un'altra occasione, di quanto per anni bisognerebbe rimanere concentrato sull'agenda delle riforme, con politici capaci di abbracciare il linguaggio e la serietà delle riforme. Non ho detto che bisogna continuare a stare coi tecnici sospendendo la democrazia. Detto questo, uno dei temi su cui ci si è accalorati è stato esattamente la RAI. E bisognerà tentare di capire perché, quindi con i nostri ospiti tra due minuti io ve li presento e ci facciamo spiegare per quale ragione il tema della RAI, oltre che per la consueta storia che conosciamo da vent'anni, perché il duopolio politico si incarna nel duopolio televisivo eccetera eccetera, che cosa però potrebbe cambiare davvero e sul serio ora che bisogna nominare tra poche settimane il nuovo consiglio d'amministrazione della RAI. Punto, la consueta rassegna di alcuni temi del Euro cronache, sulle quali la stampa italiana, devo dire, sta riprendendo a diventare totalmente cieca e sorda, perché finché c'era lo spread alto 10-15 pagine al giorno, adesso improvvisamente è come se tutto fosse risolto. Noi teniamo d'ors e vi spieghiamo perché no. Per esempio, ieri all'Eurogruppo, sì, ho capito che la notizia è che c'è il Mario Monti, ipotetico candidato alla successione di Juncker alla testa dell'Eurogruppo. D'accordo. Tra l'altro tedeschi, olandesi e finnici, naturalmente il blocco, quello virtuoso, vogliono il finlandese Ilkka Katainen invece, che effettivamente sarebbe un po' l'espressione dell'area più euro rigorosa. Mario Monti visto un po' anche dai francesi e dagli altri come l'uomo che può dialogare, ma la realtà è che ieri l'Eurovertice aveva un punto importante all'ordine del giorno, la questione spagnola, visto che la Spagna è più di 2 punti di deficit sopra il programma concordato con l'Europa. Ieri è stata presa una decisione che secondo me non è molto intelligente, perché l'Eurogruppo ha detto alla Spagna che invece che rispettare il 5,8% di deficit in questo 2012, dopo che hanno fatto più dell'8,5 nel 2011, devono ulteriormente scendere dal 5,8 a 5,3. In altre parole, la misura della correzione per la Spagna in quest'anno sarebbe di 35 miliardi di euro in un solo anno. Questo, per chi ha un'idea delle correzioni successive delle riforme spagnole in questi 2 anni, la mia opinione è che è pressoché irraggiungibile questo criterio. Ieri il governo spagnolo ha detto sì, E il Financial Times scrive oggi che questi requisiti di aggiustamento ulteriori rendono il programma di rientro spagnolo simile in proporzione a quelli greco, portoghese e irlandese. Per me si apre un altro problema serio, perché vedrete che la Spagna accende i rischi nei prossimi mesi, non potrà rispettare questo obiettivo. Financial Times Deutschland ci ricorda che quest'anno, in termini di parità di potere d'acquisto, il reddito pro capite dei greci potrebbe scendere sotto il livello del Perù e del Vietnam, e se la recessione dovesse andare verso l'8%, anche il Bangladesh potrebbero poi l'anno prossimo superare la Grecia. Scusatemi, solidarietà ai cittadini greci da questo punto di vista. Segnalo ancora questo Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'è un commento ospitato del presidente Bundesbank, di Jens Widmann, in occasione del fatto che oggi ci sarà la presentazione del bilancio della Bundesbank per il 2011. Il presidente della Bundesbank ribadisce esplicitamente la richiesta alla BCE di Mario Draghi di uscire dal programma di sostegno straordinario di liquidità alle banche europee con le aste a bassa qualità dei collaterali. La richiesta è esplicita e formalizzata in pubblico, come lo era nella lettera che fu anticipata sempre dal Frankfurter Allgemeine due settimane fa. Mi fermo infine con un'ultima segnalazione importante, questo riguarda la Francia. Ieri ho visto su Paris Match il primo sondaggio, per la prima volta, in cui si configura l'ipotesi che possa vincere Sarkozy, sia pure... stiamo parlando di un sondaggio sul primo turno, e nel primo turno, secondo questo sondaggio di Paris Match, Sarkozy prenderebbe il 28,5% dei voti rispetto al 27% di Hollande nel primo turno, che è previsto, ve lo ricordo, il 22 di aprile. Tuttavia nel secondo turno, sempre lo stesso sondaggio dice, sarebbe sempre Hollande a battere Sarkozy di 10 punti, 54,5% al 45,5%. Comunque Sarkozy sta guadagnando qualche cosa. Andiamo al punto di oggi. Rai, tutto cominciò più o meno due mesi, una settimana fa, quando il premier Mario Monti pronunciò queste parole. La RAI non è venuta come urgenza numero uno nella mia attività perché c'erano incombenze molto più urgenti e più drammatiche. La RAI è una forza del panorama culturale e civile italiano, è una forza che credo abbia anch'essa bisogno di ulteriori passi in avanti, e mi dia ancora qualche settimana e lei vedrà. Allora, su questo lei vedrà, si sono accese aspettative, e naturalmente il problema è che ora che bisogna rinominare il consiglio di amministrazione che va in scadenza, la questione è diventata, da quello che ho capito io, se farla con le procedure, il rinnovo nel CDA della legge Gasparri, la vecchia legge, la legge esistente, oppure se non mettere mano, cambiando i criteri, modificando i criteri delle nomine. C'è stata una presa di posizione del ministro per lo sviluppo Corrado Passera proprio ieri, che ha escluso, queste sono state le sue parole, che ormai ci siano i tempi e i modi per arrivare ai nuovi vertici RAI con una diversa governance. Alle nomine del nuovo consiglio, parole di Passera, tra un mese si arriverà per definizione con l'attuale governance. Dopodiché, ha concluso Corrado Passera, sarà il presidente del consiglio decidere. Vi ricordo che a seguito dell'approvazione del bilancio, che dovrebbe essere prevista entro la fine di questo mese, a quel punto spetta al Tesoro, che è l'azionista della RAI, quindi è lo stesso Monti come ministro dell'economia, spetta al Tesoro avviare le procedure previste dalla legge, se rimangono le procedure attuali, perché sia il Parlamento, la commissione di vigilanza, a votare i sette consiglieri. Il Tesoro come azionista ne indica uno suo e designa sempre il Tesoro, oltre al proprio consigliere, un presidente che va poi sottoposto al voto della vigilanza. Quindi l'attuale governance attribuisce al Parlamento, alla Commissione di Vigilanza, la componente prevalente nelle indicazioni, insomma, di chi poi compone il Consiglio e dà gli indirizzi. Però il Tesoro ha voce in capitolo. Rimanere tutto come oggi oppure no? Bersani ha detto in questi giorni ripetutamente ad Alfano che è stato un irresponsabile perché ha alzato troppo la tensione sulla RAI, ha detto Bersani si può e si deve cambiare la RAI invece che andare avanti con questo criterio. Bersani ha avuto come risposta ad Alfano: io voglio occuparmi solo di lavoro. Giovedì nel vertice annunciato da Monti c'è sia il lavoro che però alla fine anche la RAI. A questo punto mi affido ai nostri ospiti per fare capire agli ascoltatori che cosa ci si può legittimamente aspettare e perché la tensione è così salita su questa questione. Abbiamo con noi per le due parti, per così dire, abbiamo Vincenzo Vita del PD, buongiorno. Buongiorno a voi. E Alessio Butti invece per PDL, buongiorno. Comincerei da Vita. Cambiare la governance oppure no? C'è tempo secondo Vita? La storia della RAI è come stregata, perché il tempo naturalmente man mano che procede si estingue. In verità nel Parlamento italiano sono depositate da quel dì proposte di legge, ce n'è qualcuna del PD e ce n'è anche una firma Butti, tra l'altro, che saluto, che assomiglia per alcuni versi, cioè tese a dire la RAI va riformata nella sua governance con un amministratore delegato e togliendo quindi di mezzo il più possibile l'influenza stretta dei partiti. Però sono rimaste lì, non c'è stata un'evoluzione. Ora si arriva alla scadenza in una situazione di impasse fondamentalmente. E noi continuiamo a insistere che si provi almeno ad avviare l'iter parlamentare e dare un segno tangibile di una volontà di riforma. Comunque per parte nostra abbiamo detto in tutte le salse che noi non voteremo con la legge Gasparri, con i criteri della legge Gasparri, e quindi si aprirà una questione, perché noi commissari del Partito Democratico non andremo a votare. Posso chiedere una cosa, ma se si va a questo scontro, quindi ne deduco improbabilità molto elevata che poi il Parlamento si possa in Commissione di Vigilanza formulare un'ipotesi di Consiglio di Amministrazione nuovo, non finisce che tutto resta così com'è, nel senso che si resta proprio nella proroga di quello attuale, magari fino alle elezioni del 2013, Vita? Non esiste tecnicamente la proroga, come sapete, il Consiglio si rinnova, non c'è una prorogatio stabilita, quindi se mai uno stato di fatto che vorrebbe dire... Perché oggi Paolo Conti sul Corriere, alla fine del suo articolo, dice che il Consiglio che era presieduto da Claudio Petruccioli alla fine andò in proroga per 9 mesi, cioè continuò a lavorare insomma per 9 mesi. Insomma, naturalmente sono fenomeni che nessuno auspica, perché non è una proroga formalmente definita, è uno stato di fatto di una crisi. Naturalmente però bisogna avere fantasia, perché noi apriamo una questione politica, la RAI così non si può governare con questi meccanismi, con questo tipo di struttura di governance, si dia un segno di volontà politica di cambiare, dopodiché... Allora, d'accordo, lei intanto ci ha detto la posizione sul metodo, criterio da cambiare, poi entreremo nel merito di come eventualmente cambiarla la RAI. Butti, sulla stessa domanda, che dice? Innanzitutto che le regole civilistiche, come invece ben sapete, consentono anche la proroga, che comunque è un esercizio che nessuno si augura. Diciamo che dopo la sua così puntuale ed esaustiva introduzione io potrei limitare il mio commento a un laconico sì, nel senso che non avremmo avvertito la necessità in queste settimane di parlare così intensamente di RAI se il Premier, prima a che tempo che fa, l'8 gennaio, poi in una successiva intervista, non avesse puntato l'attenzione sul rinnovo della governance, e se non l'avesse fatto, perché questo pochi lo ricordano, anche il sottosegretario Catricalà in una puntata di Porta a Porta pochi giorni dopo. Per cui si sono agitate un po' le acque anche in vista del rinnovo del 28 marzo e abbiamo dovuto attendere, diciamo così, una conferma che per noi equivale a regola assoluta in questo momento, che è arrivata dal ministro competente Passera, il quale in un'intervista, mi sembra al Sole 24 Ore, ha detto che si voterà nei tempi giusti, si voterà con questa legge, una legge che è la 112-2004, meglio conosciuta come Gasparri, che è bene ricordare, assegna al Parlamento, come giusto che sia, e come è stato poi confermato da sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale, la possibilità di votare ed eleggere il Consiglio di amministrazione. Io penso che questa regola, prevedendo la percentuale dei 2/3 per il Presidente, consenta quindi di individuare un Presidente condiviso, ed è questa la ratio della Gasparri. Secondo me quello che ha detto Vita è molto grave, cioè un Aventino in questo momento sulle questioni della RAI, quando avremmo la possibilità di condividere delle scelte e di chiudere rapidamente questa tensione, ecco, secondo me l'Aventino è l'ultima delle cose che noi potremmo aspettarci dal PD. E un'ultima questione, senza alcuna polemica, non è il disegno di legge Butti che somiglia alla proposta di legge Bersani, ma è la proposta di legge Bersani che somiglia al disegno di legge Butti, non fosse altro perché l'abbiamo depositata con numerose firme in Senato, credo un anno e mezzo prima, a dimostrazione che se ci fosse stata la volontà a quell'epoca noi saremmo stati pronti a discutere qualcosa. Allora, naturalmente io ho l'obbligo di dire a entrambi gli ospiti che la reazione del pubblico di questa trasmissione non è un campione rappresentativo, non è neanche rappresentativo del nostro pubblico il fatto che a parlare siano solo coloro che usano la voice, cioè intervengono con gli sms al numero 349-238-6666, però vede una pazzesca prevalenza di sms che bombardano sul tema con l'economia che va come va, con le spese degli italiani che tornano agli anni 80, parità del potere d'acquisto, la spesa alimentare, notizia di ieri, con quello che continuate a dirci ogni giorno dei programmi di austerità europea che inaridiranno ulteriormente la domanda europea, della RAI ce ne frega molto poco. Ecco, questa è una reazione molto forte. Io devo dire da parte mia che al pubblico che per una volta non sono d'accordo, nel senso che la RAI, il servizio pubblico, l'informazione televisiva, il duopolio televisivo, che è l'incarnazione di una certa politica bloccata, è poi inevitabilmente da sempre uno dei temi ricorrenti nell'informazione, nell'intrattenimento, nell'industria culturale di questo paese. Quindi capisco che le priorità sono altre, però è vero che c'è una questione molto grande, c'è una questione che riguarda poi anche la spesa per l'efficienza di questo servizio pubblico, gli oltre 11.000 dipendenti, gli oltre 40.000 collaboratori, la necessità ogni anno di dover riacchiappare, facendo i miracoli, i salti mortali, un equilibrio economico regolarmente sul punto di sfuggire di mano con nuovi deficit, la commisurazione tra il canone, tassa di possesso, ne abbiamo parlato settimane fa, ricordate quando ce la volevano imporre sui computer delle aziende, rispetto a in che cosa consista un servizio pubblico, tanto è che nelle diverse ipotesi che sono circolate sui giornali si era parlato anche di un'ipotesi di divisione, di distinzione tra reti finanziate da canone rispetto a reti che invece, o rete che invece avrebbe dovuto essere a quel punto finanziata da pubblicità, quindi distinguendo rispetto all'offerta complessiva della RAI ciò che è davvero servizio pubblico o prevalente servizio pubblico con risorse da canone da ciò che invece è puramente commerciale. Vita, che dice da questo punto di vista? Ci si arriverà, non ci si arriverà mai, perché mi pare di capire che dopo il primo giro tra voi due siamo al puro confronto muscolare. Allora, innanzitutto, eccoci tornati in studio, una risposta ad alcuni ascoltatori che hanno mandato un messaggio al 349-238-6666 che dicono: ma come, caro Giannino, hai dato un'interpretazione iniziale dell'Eurogruppo di ieri totalmente opposta rispetto a quella dell'apertura del Sole, o stai sbagliando clamorosamente tu, oppure dici qualche cosa. Spiego perché. Il Sole di oggi ha un'apertura in cui dice Unione Europea più tempo a Madrid e sottolinea il fatto che per effetto del maggior deficit del 2011, ieri la decisione è stata quella di consentire un 5,3% di deficit nel 2012 rispetto al 4,4% che era nel programma di convergenza europea. Il mio punto di vista è un altro. Io parto dal fatto che loro hanno accumulato l'8,5%, l'8,6% di deficit nell'anno scorso, quindi più di due punti abbondanti, due punti e mezzo rispetto a quello che dovevano fare nel 2011. Partono da questo tetto molto più elevato e al vertice la richiesta spagnola era di fermare la correzione per il 2011 al 5,8%. L'Eurogruppo non ci ha sentito e ha detto dovete andare al 5,3%. Passare, fare una roba di 3 punti di PIL in un anno, questa è la mia valutazione, non significa dare più tempo agli spagnoli, significa dire agli spagnoli buttatevi ulteriormente sotto il tavolo, per così dire. Ecco, io ho questa interpretazione di questa mancanza di realismo dei vertici europei. Non si scherza, 3 punti di PIL in un anno, quando un paese come la Spagna è reduce da 2 anni di correzioni su correzioni e riforme su riforme, sono una cosa molto seria, ma questo spiega perché i punti di vista sono, lo ammetto, radicalmente diversi tra la mia lettura dei fatti e quella dell'apertura del Sole di questa mattina. Lo ammetto apertamente e naturalmente mi assumo la mia responsabilità su questo, e oltretutto bravi voi che ve ne accorgete immediatamente al volo e lo fate notare, io per correttezza lo devo spiegare. Allora, si è aggiunto tra noi, dopo il primo giro tra gli ospiti, il direttore del Tempo Mario Secchi, che io ringrazio, buongiorno. Buongiorno Oscar e buongiorno agli ascoltatori. E io, a dire la verità, in attesa del direttore del Tempo, era proprio da un pezzo comparso sul Tempo che stavo leggendo come equalmente la distinzione tra reti RAI da fonte canone e da fonte invece pubblicitaria a mercato fosse, secondo le fonti del Tempo, addirittura su nelle carte che il Presidente del Consiglio o chi per lui o che tra ha sul tavolo e che spiegano perché poi l'8 gennaio aveva detto io datemi qualche settimana e metterò mano alla RAI. È veramente così secondo te, Mario? Ma secondo le nostre informazioni era così. Poi il progetto è naufragato tra virgolette, o comunque vediamo che cosa succede al prossimo vertice rispetto alle posizioni dei partiti. Cioè c'è un problema di fondo sulla RAI. La legge del 75 dice che è di competenza del Parlamento. Come si fa a fare un progetto di iniziativa governativa su una cosa del genere? Non sta tanto in piedi né dal punto di vista politico né, aggiungo, dal punto di vista puramente legislativo. Non si può agire per decreto, non si può fare in quella maniera come era concepita. È una situazione politica complicata. Se ricordi, io settimane fa dissi meglio non toccare la RAI perché per Monti diventa un problema, e infatti lui ci ha provato ed è diventato subito un problema. Allora, non si risolve così il tema della RAI. Sentiamo un secondo invece Vita, che ci ha fatto capire noi non partecipiamo con i vecchi criteri, e sentiamo da parte sua, della sua parte politica, se invece di questi o di altri particolari di intervento più o meno radicale sul corpo dell'attuale impostazione che presiede all'azienda pubblica radiotelevisiva sarebbe opportuno toccarlo, potrebbe toccare di un governo anche la ristrettezza dei poteri che sono invece affidati al Parlamento, come diceva Secchi. Che si può concretamente fare? Cosa fareste voi? Cosa direte a Monti di fare? Vorrei introdurre un argomento, visto che mi sono occupato di questi temi per un po' di anni in passato, che tenta di chiarire questa benedetta questione governo-parlamento. Noi fummo propugnatori in tempi più antichi di oggi, meno sospetti dal punto di vista dell'utilizzo politico, della vecchia dualità, tra virgolette, tra Parlamento che dà indirizzo e vigilanza al servizio pubblico e il governo che invece provvede a stipulare il contratto di servizio, quindi ha un ruolo succedaneo e secondario, certamente non preminente rispetto al governo, tra virgolette, non nel senso del governo esecutivo, della governance, insomma, della RAI. Questo non significa che non ci possa essere una proposta di iniziativa governativa. Per fare un esempio concreto, la legge Gasparri fu di iniziativa del ministro Gasparri, non per caso tutte le varie proposte di legge che sono state negli anni passati più o meno concluse e arrivate a buon fine hanno avuto quasi sempre un incipit governativo. Il tema è che il meccanismo di governo non può essere dominato dal potere esecutivo, ma la proposta può essere benissimo di fonte governativa, una proposta di legge, quindi né un decreto, d'accordo, tantomeno un commissariamento, ma una proposta di legge potrebbe essere. Allora, uno scenario che potrebbe profilarsi, che io almeno mi auguro, si apre la questione RAI, nel senso che noi poniamo un tema, la governance va cambiata, non andiamo a votare con questa legge. A quel punto si apre una virtuosa discussione con la partecipazione di tutti e anche, e spero, molto del governo, finalizzata per esempio, non so, a ridurre il numero dei consiglieri da 9 a 5, faccio un esempio, finalizzata a definire meglio il ruolo dell'amministratore delegato, cioè una sorta di riapertura della questione RAI, non nel senso appunto che il governo fa un decreto legge, ma nel senso che coopera, partecipa a una discussione piuttosto delicata. Allora, di fronte a questa riflessione, a me sembra oggettivo e vero quello che dice Vita a proposito del fatto che poi i governi lo spazio se lo sono presi come nel disegnare un contesto di nuove regole. Cosa diversa è se poi i partiti disconoscono a questo governo, dopo avergli attribuito funzioni così delicate come quelle che ha svolto in queste mesi e settimane, gli disconoscono invece la facoltà di farlo sulla RAI, o quantomeno l'opportunità, cosa diversa, che dice Secchi. Butti, che dice? Beh, che innanzitutto la riflessione di Vita, che secondo me è importante, dovrebbe però estendersi ad una valutazione diversa dalla Gaspardi. La Gaspardi nacque come legge di sistema e all'interno di quella legge che arrivò in Parlamento, mi sembra con 6 o 7 articoli, ne uscì con probabilmente una 20-25 articoli, quindi fu elaborata notevolmente dal Parlamento, all'interno di queste novità entrarono anche tutte quelle relative alla RAI, molte furono anche bipartisan. Io continuo col pensare che probabilmente i suoi ascoltatori, Giannino, qualche ragione ce l'abbiano, nel senso che pur occupandoci noi direttamente di informazione e di comunicazione, riteniamo che nella gerarchia delle emergenze di questo Paese la RAI in questo momento non sia ai primi posti. Lo dico perché, e quindi ecco, probabilmente Monti dovrebbe occuparsi di altro. Ma lo dico perché la RAI ha presentato recentemente un bilancio in pareggio, lo dico perché a onor della cronaca tutti questi su questo hanno convenuto, c'è stato anche un miglioramento relativamente all'equilibrio e al pluralismo all'interno del suo palinsesto. Lo dico perché pur nella crisi che stiamo vivendo la RAI con questa direzione e con questo consiglio di amministrazione sta operando con tutte le difficoltà del caso, ma sta operando tutto sommato positivamente. Sul fatto poi della suggestione che ho letto anch'io sul Tempo e saluto il direttore, ecco, quella fu relativamente alla privatizzazione della RAI. Io voglio ricordare che la Gaspardi già prevede la possibilità di una privatizzazione ancorché parziale della RAI e io vorrei che tutti i giornali e tutti i giornalisti affrontassero con la puntualità con cui l'ha affrontato il Tempo questo argomento, perché vede, ragionare sulla privatizzazione in analogico, cioè come era la RAI qualche tempo fa, è un conto. Con tre reti televisive, poi c'era la radio e le cose erano un pochino più semplici. Farlo oggi in digitale, con una offerta che è notevolmente aumentata e con una differenziazione anche dei mercati e quindi dell'offerta, della domanda, è una cosa molto più complicata perché verrebbe messo in gioco il canone, che è quello che ci consente di usufruire del servizio pubblico, e quindi anche il servizio pubblico, e quindi dovremmo interrogarci sulla utilità o meno del canone, se metterlo all'asta come qualcuno propone o ha proposto, oppure addirittura toglierlo e privatizzare tutto quanto, tenendo però in piedi uno o due reti, ma come se il canone non lo vogliamo più? Cioè è molto complessa la situazione, va affrontata con puntualità, poi se l'iniziativa deve essere del governo, per carità, ben venga, poi il Parlamento ha ovviamente l'ultima parola. Meglio è però se meglio sarebbe se l'iniziativa fosse del Parlamento. Allora, dunque, mi prendo 20 secondi. Giannino da anni sostiene che proprio perché il duopolio ha finito per incarnare il confronto politico tra fronte berlusconiano e non berlusconiano, io ho sempre sostenuto che nell'interesse di entrambe le parti, dello Stato e del servizio pubblico, che è da ridefinire, quanto anche di chi è in quella parte politica fondata e guidata per 17-18 anni, vedremo poi se è finita o meno quella lunga stagione, dovesse essere di reciproco interesse scioglierlo questo equivoco. La mia opinione, minoritaria totalmente, è esattamente quello che il canone si mette all'asta, nel senso che il servizio pubblico ridefinito per standard e qualità al di fuori quindi degli obblighi di audience per raccolta commerciale può essere affidato in asta a soggetti privati che, se vincono l'asta, si impegnano a esercirlo nel pieno rispetto di standard pubblicamente stabiliti e pubblicamente invigilati. È ovvio che questo ai privati è possibile farlo solo se integra piattaforme di offerta proprie che invece stanno in piedi sul mercato e con risorse commerciali, e la gara diventa a chi sa integrare la propria offerta vincendo pluriennalmente la gara per il servizio pubblico, offrendo invece servizi informativi equilibrati, trasmissioni culturali eccetera eccetera al di fuori della tirannia dell'audience. Questa è la mia soluzione ideale da millenni praticamente, e lo dico avendo concorso, quando ero portavoce nazionale di un partito nella famigerata Prima Repubblica, alle nomine RAI. So bene di che cosa si tratta, mi fa sempre ridere quando i partiti dicono che non c'entra la politica. Ho vinto cause l'ultima due mesi fa in cui l'azienda mi chiamava in tribunale a rispondere del fatto che è lottizzata. Sì, è lottizzatissima, la politica conta su ogni cosa, e basta vedere il numero di addetti a parità di risorse e di audience per capire quanto un privato lo farebbe con molta più efficacia, con molte meno persone dentro. E aggiungo che quando leggo, come mi è capitato sul Mattino in queste ultime settimane, il quotidiano di Napoli, che la sede di RAI di Napoli, di un'azienda pubblica, procede a assunzioni a tempo parziale con finte lettere di dimissioni alle donne per cacciarle via non appena dovessero andare in maternità, mi cadono le braccia, e a maggior ragione mi rafforzo nella mia opinione che questa sarebbe la soluzione di un pazzo lunatico minoritario liberale, che però a quel punto individuerebbe un'area di servizio pubblico vero, non quello misto, finto, dell'infotainment che mischia l'audience di Sanremo e dice che è servizio pubblico. Non vedo in che cosa, con tutto rispetto per il grande audience, la professionalità, gli artisti, tutto quello che volete voi, e che mischia tutto questo poi con un duopolio politico travestito da grande questione istituzionale, con i mille casi Minzolini da una parte, dell'informazione specularmente dall'altra parte, da decenni esistente in RAI. Ecco, una specie di enorme quotidiana rappresentazione dell'impossibilità poi di presiedere con norme precise a fare quello che nella stragrande maggioranza dei paesi avanzati, con modelli diversi, quello britannico non è quello americano e non è quello tedesco federale, federalizzato, però è un servizio pubblico. Si può prendere uno o l'altro modello, il nostro è un casino politico del veto istituzionalizzato. Questa è la mia personalissima opinione. Strade. E mentre ripartono gli ipnotici Doors, sentiamo come la pensa qualche ascoltatore. Cominciamo con Manuel, che ci chiama da Bologna. Prego, Manuel. Salve, io volevo dire questo. Secondo me il punto è che se si vuole riformare la RAI, questo è il momento di farlo. Monti è un interlocutore serio fuori dalle parti, che può, secondo me, creare una RAI nuova e staccare pulita la politica. Io capisco che Alfano in questo momento non voglia prendere in considerazione il fatto della riforma, perché, come sappiamo, il centrodestra ha sempre cavalcato le campagne elettorali e con tutto il populismo che ha fatto, grazie anche alle televisioni. Secondo me è il momento di riformarla, di staccarla dalla politica per creare una RAI libera, che possa tornare alla vocazione originale di cultura e arte e di innovazione, okay, per un'Italia che in questo momento ne ha bisogno. Grazie, Manuel. No, tu dici, mettiamo a frutto il capitale di credibilità di Monti, del premier e del suo governo. Piero da Roma, come la pensa? Buongiorno. A parte il fatto che la proposta che ha fatto lei, Giannino, è una cosa che anch'io penso da molto tempo, sul facsimile un po' di quello che è il servizio pubblico che fa la Radio Radicale. ma io volevo dire una cosa molto più semplice, che forse una modifica che si può fare con molta facilità, è quella che noi telespettatori dovremmo sapere qual è un programma pagato col canone e qual è un programma pagato invece con la pubblicità. Questo sarebbe semplicissimo, basterebbe mettere un bollino. Ovviamente a questo punto sono budget separati e ci deve essere un doppio bilancio, uno per le cose fatte col canone e uno per le cose fatte con la pubblicità. Quindi lei dice separazione funzionale e amministrativa nella condivisione di una stessa azienda, poiché ha due fonti così rilevanti nel finanziamento nelle rispettive quote, ma con una separazione amministrativa e funzionale, quindi con programmi che convivono nel palinsesto, ma dichiaratamente insistendo su voci diverse del bilancio dal punto di vista del finanziamento. Giacomo da Milano, che dice? Io ho un'idea molto più radicale per quanto riguarda la RAI, Giannino. Io credo che la RAI sia una lobby formidabile, una lobby localizzata, che quindi ha un potere straordinario nel contesto della compravendita del consenso. Esattamente come all'Italia, che non serve affatto nel modo migliore possibile gli interessi del paese, ma serve gli interessi suoi propri. Secondo, credo che la RAI sia un centro di maneggio clientelare assolutamente inguardabile e mette in prima fila i nostri paladini della Lega Nord, che l'hanno trasformata in una fabbrica di poltrone. Terzo, penso che la RAI rifletta un'idea colonialista della cultura e del servizio pubblico, perché è romana, romanesca, romanocentrica, e quindi io penso che la RAI andrebbe trasformata in un servizio al quale i cittadini possono aderire se lo desiderano. Io certamente non aderirei e certamente non spenderei, non dico 140 euro, ma neanche un euro per un servizio come la RAI. Credo che sia mio preciso diritto. Volevo solo fare un brevissimo commento a quello che ha detto lei prima sul fatto che ci debba essere un servizio pubblico, che lo Stato debba. Io credo che si debba uscire dal secolare equivoco fra pubblico e statale, che è data dalla parte di Vespaglia. E credo che lo Stato non sia in grado di gestire neppure una bottega di ciabattino, come diceva Sturzo. E quindi credo che si debba uscire da questo equivoco culturale. Giacomo, quando sento ascoltatore come lei mi si riempie il cuore. Ma minoritari siamo e minoritari resteremo in questo. Dico semplicemente che l'idea del servizio pubblico è declinato diversamente in diversi paesi. Se uno va alla Repubblica Federale Tedesca, vede come è un sistema, è una somma di sistemi di Länder, è molto decentrata, molto pesante anche lì a dire la verità, con tutt'altri criteri comunque di esercizio. Un minuto a testa, cominciamo da Secchi. Che le verrà fuori? Nulla, secondo te, Mario? Niente, perché non ci sono le condizioni per farlo in questo momento. Potrebbero forse raggiungere un accordo sulla diminuzione del numero dei consiglieri, ma è molto remoto, a meno che Monti non faccia veramente il miracolo. Allora vediamo cosa succede. Solo una cosa, Oscar. Sì. L'idea di distinguere i programmi pagati col canone da quelli pagati invece con la pubblicità non può funzionare. E non risolve il problema. Qua c'è un problema di sistema. Bisogna decidere se privatizzare o no, punto. Tutto il resto è robetta. È un pannicello caldo. Il problema della RAI è quello di sottrarlo all'invadenza della politica. Non dico che non debba esserci la politica, perché i partiti comunque rappresentano interessi legittimi della società che poi li esprime. Però così è troppo, non va avanti. Vita, a che punto vi spingerete, senza svelarci particolari segreti, nel dire no, ma pur di in realtà far rilevare che si perde l'occasione se non si fa adesso? Non ci sono segreti, questa è una storia ormai antica. La RAI è un punto anche simbolico della lotta politica italiana e quindi sarà di nuovo al centro di una discussione politica piuttosto dura, perché qui dentro ruotano tre argomenti. Da una parte il fatto che c'è una residualità attiva, attivissima, il conflitto di interessi. Berlusconi non è più al governo, tuttavia secondo c'è il problema che questa RAI non funziona, quindi serve una nuova governance, un fatto obiettivo. E terzo il fatto che noi ci affidiamo anche al buon senso del governo e delle altre forze politiche. Ok, io di qui la devo interrompere, ringraziare Vincenzo Vita, Butti, Secchi, appuntamento a domani. Radio 24, la passione si sente.